Zolt. Fulminati in azienda. Sì, no, volevo... Vabbè, allora se ci stiamo tutti potremmo pure iniziare sta riunione. Scusami, Centri, allora, per favore, permettimi di dire due parole, sì, scusate. Ma, ecco, due però, perché siamo già in ritardo. Io volevo solo ringraziare a nome dell'intera comunità il nostro caro super consulente Pigi Paragone per aver deciso di rimanere con noi nella nostra famiglia. Grazie. Marta, sono io a ringraziare voi per i continui attestati di stima nei miei confronti. Ma no, noi ringraziamo. Vabbè, abbiamo finito che ringraziamenti, potevamo andare avanti? Allora, dicevamo, campagna pubblicitaria, Marta, ando stiamo? Allora, siamo giunti al kick-off, abbiamo finito di selezionare le 3800 comparse che al momento sono in ritiro presso il convento di Sant'Antonio Maria Zaccaria per una sessione di immedesimazione nel ruolo di monaco. Ah, Marta, ma che stai a dire? Sì. Che c'è a far monaco? Basta che ti abitui a camminare a cagonna e coi piedi scarsi. Ma come sei cheap, Centri? Ma guarda che Bianchio, abbiamo organizzato una meravigliosa sessione di coaching, anzi wonderful, come direbbe lui, con il grande Donald Jump. E mo che c'entra Donald Jump con i monaci? Ma come centrifuga, non lo sai? Donald Jump, prima di diventare lo straordinario coach che tutti noi conosciamo, è stato monaco. Perciò, grazie a sessioni di gruppo basate sul metodo Stanislavski, porterà le nostre 3800 comparse a vivere, a muoversi come veri monaci. Hai capito? Meraviglioso. Donald, dottore, emergenza, che emergenza, è il presidente! Ma Pacco, ti sei incantato al disco, è successo? Il presidente è uscito dalla stanza del dottor Laporta, gli era tutto infuriato, cercando il dottor sul pezzo e non lo trova, e dice che è il manca da giorni, e ha una faccia nera. No, Marta, vi è qua, meglio che chiamiamo sul pezzo, mi sa che sta per succedere un casino, e poi so già come va a finire, tutto su di noi, anzi su di me. Quando sei qui con me, questa stanza non è qua. Marco, Marco, qua c'è sta vento di tempesta, ma quando torni te sta pure a cercare il presidente. Dai, rilassati, Centri, stai quieto, relax, cosa vuole il vecchio babbione da Marco, me? Marco, scusa se mi permetto, sono anch'io qua in viva voce. Guarda che questa volta Centri non sta esagerando, e qui tira veramente una brezza malsana. Ma perché, dai? Ma dai, girano voci che tu non stia proprio lavorando in questi giorni, che ti stia dedicando ad attività per così dire ludiche. Ehi. Quando è uscito dall'ufficio di Laporta il presidente era grigio. Piano scuro, un minuto qui a dire in giro queste cose, che sul pezzo è sempre sul pezzo. Chi è che mette in giro queste calunnie? Sarà il solito Laporta che dice queste non cose. So. Rotoleranno delle teste al mio rientro. Marco, mo sei te che devi staccarmi. No. Testa fredda e piedi caldi, muoviti e torna a casa e risolvi questa situazione. No, io voglio prima risolvere questa situazione. Voglio sapere chi mette in giro queste calunnie. Font, guardami negli occhi, Font. Non è che tu la porta... Ma cosa dici? Ma come puoi pensare una cosa del genere? Mamma mia, poi con il rapporto che ci lega, Marco, sei proprio ingiusto a dire questo. Dai, non fare così, era per dire. No, dai, no, piuttosto sai, pare che Pacco sia stato visto spesso dalla porta ultimamente. Vabbè, dai, ho capito, la devo risolvere io la situazione. Adesso chiamo il presidente e metto tutto a posto. Comunque, NCS, come sempre, non ci siamo. Manco due giorni dall'azienda e mi diventa la mia azienda il porto delle nebbie. Complimenti, complimenti. Presidente, buongiorno, sono sul pezzo, come sta? Sì, benissimo, so che mi ha cercato. Ma no, ma cosa vuol dire divertirmi in riviera? Vabbè, ma sarà una battuta, lei è un burlone. Io sono qui a lavorare come sempre. Stavo lavorando per il sales meeting, sempre sul pezzo, 24 ore su 24. Ma come... No, l'ufficio non presidiato. Ma sta scherzando? Presidente, il mio stile di leader si chiama delegativa, sa queste cose moderne? È arrivato il momento di capire su chi possiamo fare veramente affidamento. Ma certo, ho assunto su di me il peso dell'intera organizzazione del sales meeting in modo che i sottoposti si assumessero finalmente le loro responsabilità, come lei mi ha insegnato, tra l'altro, e sono grato da sempre. Alla grandissima, guardi, le dico le cose fatte. Piano ferie dell'intera direzione commerciale, fatto. Nuova campagna pubblicitaria X900, fatta. Location per il sales meeting, ci ho pensato. Tutto sotto controllo, presidente. Mi spiace, sarà stato il solito malinteso, voci di corridoio. La nuova agenzia? Alla grande, con la G-Point. Poi hanno un account, dottoressa Svetlana, guardi, le devo dire una grande. Come dice? Sua nuora, Svetlana Popovic, intelligente, veramente una bravissima ragazza, è professionale, competente, col giusto distacco, parla tante lingue. Presidente? Pronto, presidente? Non la sento più, presidente? Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.